che per voi vada bene, altrimenti ci sono ancora dei posti qua davanti per evitare magari il rumore di fuori del corridoio. Se qualcuno può venire avanti forse meglio. Perché a volte c'è un po' di traffico e infastidisce. Do il benvenuto a tutti voi che siete così numerosi, alle signore e signori qui presenti e ai nostri ospiti di questa sera. Si tratta di un'iniziativa sempre organizzata dalla Biblioteca Provinciale che ha la sede in via Vendola 5, ma ogni settimana per due volte, il lunedì e il giovedì alle ore 18, si reca a questo centro, al centro Trevi, per così organizzare delle iniziative di incontro e di promozione alla lettura, di incontro fra autori, autrici e il pubblico, perché siamo convinti che sia necessario avere uno scambio diretto, un contatto diretto con chi ha scritto qualcosa, con chi ha pensato e ha voluto trasmettere dei contenuti attraverso un libro. Sono occasioni importanti per la biblioteca, sono anche dei momenti di arricchimento perché ci così conosciamo delle nuove produzioni, ma soprattutto un filone nuovo come quello della tematica dell'immigrazione che è quanto mai attuale. Siamo ormai da due mesi attivi di nuovo con le nostre iniziative e è già la terza volta che affrontiamo questo argomento con modalità sempre diverse. Una volta è stato un DVD, una volta è stata un'altra conferenza, la presentazione di un libro, dei racconti. Comunque il tema dell'immigrazione, del movimento, della conoscenza reciproca è un tema che ci continua ad interessare e a riguardare direttamente anche come persone nella nostra quotidianità. Questa sera abbiamo un'occasione preziosa, la presentazione di questi libri. Abbiamo con noi le curatrici, i curatori. Abbiamo con noi Elisa Pavone, Adel Jabbar, Mamma di Traie e Margherita Gaudiuso. Ecco, scusi perché mi era rimasto impresso il nome Margherita della nostra relatrice. Vi invito poi a guardare anche i libri che noi prepariamo di solito, perché per ogni conferenza, per ogni presentazione di libro cerchiamo di preparare, di predisporre una bibliografia affinché ognuno possa poi approfondire il tema e sapere che nella biblioteca ci sono poi dei percorsi da crearsi, da costruirsi individualmente. Non vi rubo altro tempo, segnalo semplicemente che appunto ogni lunedì e giovedì noi organizziamo qualcosa. Giovedì prossimo saremo all'ospedale alle ore 17 e vogliamo partecipare a un'iniziativa che si intitola Donatori di Musica ed è la presentazione di un libro che racconta le esperienze dell'intervento della musica ma anche di altre associazioni o l'intervento pubblico all'interno di un ospedale come aiuto, ecco, ad una guarigione anche spirituale da parte delle persone che sono colpite temporaneamente da una malattia. Giovedì questo alle 17 all'ospedale nel giardino interno. Lunedì prossimo sarà la presentazione qui alle 18 del romanzo Sono Dio di Giacomo Sartori, verrà accompagnato dal professore Giovanni Accardo nella presentazione. E da ultimo vi lancio anche una presentazione di giovedì 20 ottobre, sempre qui, ci sarà una serata dedicata a Cesare Battisti, con Stefano Di Guzzi che ha scritto appunto un libro su Cesare Battisti e sarà con noi lo storico Andrea Di Michele. Vi ringrazio tantissimo della vostra presenza qui, sarà un tema e una serata molto interessante, abbiamo un bel tavolo articolato con tanti ospiti, grazie a voi della vostra presenza e vi ricordo di passare se avete piacere in biblioteca di Vendola 5 oppure di guardare il nostro sito dove sono indicate tutte le iniziative che facciamo di settimana in settimana. Grazie a voi. Grazie. Grazie a Valeria Trevisan, la direttrice della biblioteca, che negli ultimi anni abbiamo avuto occasione, diverse occasioni per collaborare soprattutto su questi temi, insomma, del movimento, delle persone, dello spostamento, dello spaesamento e della ricerca di speranza. E quindi anche questa sera, che di fatto rappresenta un secondo incontro rispetto a questo tema, rispetto alla memoria della migrazione, della recente migrazione in Alto Adige. Nel mese di maggio, quindi di quest'anno, abbiamo avuto un incontro sempre qua nella sala del piano di sopra, dove abbiamo trattato il tema però utilizzando le immagini del cinema. Nella nostra realtà sono stati girati diversi film dove i protagonisti sono stati le persone, i nuovi volti che costellano il territorio Alto Tisino. E quindi questo invece è il secondo incontro, vorremmo continuare questo cammino recuperando alcune pagine che sono state scritte con molta, come dire, molta passione e spontaneità anche. Sono libri, credo che siano nati a seguito di un'emozione, per questo sono libri graziosi, preziosi da rifogliare e da rileggere di nuovo. Sono libri dove in pratica abitano delle persone ancora in queste pagine che sono arrivate in Alto Adige ormai possiamo dire 25-30 anni fa, perché il libro, questo del titolo Dove mette le radici, secondo me è uno dei titoli più belli che io abbia mai visto sul tema dell'immigrazione, Dove metto le radici. È una, quindi un libro già, no? Il titolo è una domanda che nasce quasi in un luogo lontano dell'Alto Adige. E poi ci racconteranno i curatrici, come la curatrice Margherita Gaudioso, che ringrazio molto per aver accettato di essere qua a raccontare l'emozione che intorno alla quale poi lei da questa emozione nasce, è nata una riflessione naturalmente, che poi è diventato un libro, incontrando l'amico Mamadou che è sulla mia sinistra, che in pratica hanno condiviso la pagina tra di loro, una parte è stata prodotta da Margherita, l'altro di Mamadou. Sono due sguardi che si incontrano, raccontano l'alterità e l'altrove. E quindi questo libro fondamentalmente è nato altrove, però poi è stato concepito altrove, nato in Alto Adige, naturalmente, e oggi no, di cui parliamo. Mentre l'altro libro, anche qui vedete il titolo, è in sospensione tra due mondi, è un altro libro curato da Elisa Pavone insieme a Valeria Vanni, che è una signora, donna, giovane, era allora ancora, è anche giovane perché l'ho conosciuta, però oggi non è più tra di noi, è andata in Argentina, è tornata nel paese. È tornato qua di nuovo? Adesso è di nuovo qua? Mi dice che c'è un aggiornamento con i biglietti low cost, sapete che si possono stare con meno difficoltà, e quindi è di nuovo qui. Un altro libro molto bello, con dei passaggi anche molto curiosi, c'è una poesia del titolo In attesa, che è fatto con un ritmo musicale da rapper, no? C'è questo ritmo, non so se qualcuno bravo ha qualcuno che ha una buona edizione li può leggere con una certa come dire musicalità e, come dicevo, tonalità da rapper molto bella. Ci sono delle conversazioni, ci sono naturalmente le interviste, le vicende di persone che ancora sono qua, ma soprattutto donne. In effetti questi due libri, magari questo libro qua, Dove mette le radici, sono soprattutto uomini di cui si parla. Mentre questo qua, perché questo nasce 18 anni fa, mentre questo parla di donne, quindi quando... questo invece parla molto di donne, perché poi i primi che sono arrivati sono stati gli uomini, poi una seconda ondata dove sono state le protagoniste e le donne. Comunque questi libri ti offrono delle opportunità per comprendere molta realtà tramite il racconto delle persone, perché non è un saggio di antropologia o di geografia umana, ma semplicemente delle persone che raccontano, però nel loro racconto si riesce a esplorare tanti mondi, soprattutto le vicende delle persone che attraversano diversi contesti. E tutte queste persone nell'attraversare i contesti hanno una caratteristica, quella di affermarsi, di trovare se stessi, di rivendicare una propria identità, al di là degli schemi e dei luoghi di arrivo o i luoghi di partenza. Per cui io mi fermo qua, ringraziandovi naturalmente tantissimo, perché qua trovo, vedo tanti volti di persone che tutti questi anni ho conosciuto in diversi sedi, grazie a loro ho imparato tante cose, ho aumentato il mio, come dire, anche le mie sensibilità, ho inglobato, ho incluso molti punti di vista che mi hanno reso, come dire, capace, come dire, di non essere autocentrato, no? Il mondo è fatto di tanti sguardi, di tante sensibilità, e sicuramente l'incontro con gli altri permette alle persone ad acquisire una conoscenza fondamentale per il mondo di oggi. E quindi questi libri poi ci aiutano davvero, no? Molto nel proprio acquisire queste bagaglie di cui c'è bisogno. Io a questo punto passo subito a Margherita la parola, partendo dal titolo, dove mette la radice? Sì, il titolo forse lo spiegheremo alla fine, da quello che abbiamo scritto insieme, Mamma 2 di Iori. Le ragioni di questo titolo le capirete alla fine. Voglio dire questo, è vero, Adela ha colto nel segno, questo libro nasce da un'emozione e nasce soprattutto anche da un'amicizia, e l'amicizia con Mamadou. Raccontare l'amicizia con Mamadou è raccontare un periodo che risale alla fine degli anni 80, inizi anni 90. Un periodo di svolta, un periodo di avvenimenti nuovi nelle nostre città, l'Italia è questa città, e pieno di avvenimenti a cui veramente non eravamo preparati, nessuno era preparato. Però devo dire che chi ha capito che si era di una svolta veramente epocale e ha voluto buttarsi in questo fiume, si è rimboccato le maniche e ha detto cominciamo, e ha iniziato un cammino soprattutto di rinnovamento nel proprio io, è un rinnovamento interiore. E questo libro come è nato? Allora, io ho conosciuto Mamadou ad una festa di un'associazione, da una festa organizzata da un'associazione di solidarietà per stranieri. Io, Mamadou era di casa a casa mia, noi eravamo di casa a casa di Mamadou, l'unica cosa è ancora così, praticamente tu e mia figlia siete i fratelli, insomma, ecco. E quindi cos'è successo? È successo che dopo un po' di anni abbiamo vissuto determinate esperienze insieme e io ho chiesto a Mamadou, senti Mamadou, ma perché buttiamo via tutto quello che abbiamo vissuto? Perché deve passare così inosservato? Scriviamo qualcosa, facciamo qualcosa, le conserviamo queste nostre belle esperienze. Lui mi ha detto sì, sì. Beh, intanto io avevamo conosciuto anche Adele, ma tu veniva a casa mia e lui scriveva in francese, si traduceva, perché il italiano di Mamadou a quell'epoca non era ancora, insomma, buono, e si traduceva. Io poi scrivevo per conto mio il mio personaggio. Quando abbiamo finito, siamo felici e contenti, siamo andati da Adele e abbiamo detto, senti Adele, cosa ne pensi di questa cosa qui? E poi mi hai telefonato una sera, erano 10 di sera, mi hai detto, ma mi piace tantissimo, dai, facciamo qualcosa. E così è nata la storia. mio personaggio. Il mio personaggio è una donna che a un certo periodo della sua vita è andata in un paese sconosciuto, è andata in un paese per una vacanza e ha incontrato una persona che le ha dato una scossa emotiva, la prima emozione, e l'ha messa in crisi questa emozione. È stata come una scrollatina. Allora io vi voglio leggere il primo pezzo. Quando aveva cominciato a riflettere sui problemi di quel mondo, si è chiamato ormai. Si sente poco? Prego, può venire qua per favore? C'è in prima fila. Posso trarre più? No, ma dobbiamo sentire anche noi. Ma non sentite? Poco, molto poco. Proverò ad alzare la voce. Quando aveva cominciato a riflettere sui problemi di quel mondo chiamato ormai terzo, non sapeva di preciso, forse su quella spiaggia a chilometri in India. Le si era avvicinata una donna vestita di un povero sari sporco, scolorito. Reggeva fra le mani della ferraglia recuperata probabilmente qui e là, che avrebbe rivenduto per ricavare qualche rupia. Con i gesti e un linguaggio sconosciuto, di cui Regina intuiva il significato, chiedeva qualche soldo per dar da mangiare ai suoi bambini. Era tempo di festa in Italia, 2 giorni a Natale. Regina immaginò in quel momento le vie del centro della sua città, le luci, gli addobbi che ne hanno più guardi, il freddo che non fa male, le corse della gente fra un negozio e l'altro per risolvere i problemi del regalo. Già, il problema del regalo. Pensò alla nebbia che rendeva intima e più piacevole l'opulenza natalizia della grande pianura e della sua città di provincia dalla quale per un po' di giorni si era staccata. Era volata laggiù, al sole, a godere quel diverso che il benessere raggiunto offre quando, come si vuole. Solo un po' di giorni. La sua casa, la sicurezza, le certezze di cui non poteva fare a meno, l'aspettavano al ritorno. Quella donna le stava davanti. Di colpo sentì la sua città come una prigione piccola piccola, dove si rischiava di rimanere soffocati. La percezione chiara, netta, del privilegio e del rischio di essere europea, cominciò a sentirla in quel momento? E passano un po' di anni. E comunque dopo qualche anno Regina non ha più bisogno di volare lontano per vedere volti sconosciuti, volti diversi. E questa gente comincia a girare qui in città, come tutte le città italiane, e volevano bere, bussano agli occhi e alla mente della gente. E Regina entra un po' in crisi, è un po' curiosa, diciamo, e fa un secondo incontro, fa altri incontri, comincia la sua storia. Fu 3 o 4 anni più tardi, sulla linea 6A che univa al centro alla periferia, che la consapevolezza di quel privilegio cominciava a procurarle vari sensi di colpa. Insegnava nella scuola media di un paese della provincia. Nel viaggio di ritorno a casa, la sera soprattutto, incontrava sull'autobus immigrati magrebini. Li osservava, i capelli ricci, i visi abbronzati e scarni, i vestiti sgualciti e decisamente fuori moda. Erano uomini di età indefinibile, sembravano nel contempo giovani e vecchi. Si portavano dietro un sacchetto di plastica pieno a metà. Si era sempre chiesta incuriosita che cosa mai ci potesse essere lì dentro. Ed erano proprio quei sacchetti ad attrarre la sua attenzione. Poi guardava la propria borsa. Ne possedeva diverse ed era abituata a portarsi appresso quella che più si adattava al vestito indossato. Cominciava dal confronto quasi involontario, Fra i sacchetti di plastica ed una borsetta di moda, il suo malessere verso questi occasionali compagni di viaggio. Allora, Regina allora comincia il suo viaggio, un viaggio fatto con consapevolezza all'interno di questa gente. E ha voglia di conoscere. Chi lo sa che cos'è che spinge a fare certi passi? E sono i sensi di colpa, è la curiosità, sono gli slanci emotivi, sono un sacco di cose. Ognuno ha la propria motivazione. Allora, Regina si butta. E nascono in quel periodo nuove associazioni, è un momento di euforia in città, come in tutte le città d'Italia. E nascono associazioni, è bellissimo, perché sembra un periodo di promesse. È il periodo immediatamente antecedente e immediatamente successivo al varo della legge Martelli. E ci sono tante speranze. In città girano clandestini senza lavoro, si aspettava la legge Martelli per poter avere i permessi di soggiorno, e sembrava tutto bello, tutto euforico, tutto facile. Ricordo quel giorno a Roma, una cosa meravigliosa. E poi però pian pianino, quando si devono fare i conti tra la teoria e la realtà e la pratica, allora cominciano i primi problemi. E io a questo punto do la voce a Mamadou, che... Quanto la fonte di problemi? Che no! Perché poi lui ha vissuto più da vicino, all'interno, questi movimenti che ci sono stati. La cosa più bella comunque in quel periodo, la cosa veramente positiva è stata questa. Sono nate tante associazioni, tanti gruppi spontanei, cittadini anche, che si aprivano a questo nuovo stato. La cosa più bella è stata questa, che finalmente il mondo laico e il mondo cattolico si sono uniti per la prima volta perché avevano un obiettivo comune. Ecco, l'accoglienza. Che poi le cose, che poi ci siano stati dei problemi, è logico, è naturale. Nessuno di noi era preparato, però era bellissimo, perché c'è chi ha fondato associazioni, chi si è buttato, chi ci ha messo la faccia, chi ha rischiato. E le cose sono andate avanti, fra alti e bassi, alti e bassi, le cose andavano avanti. Perché? Perché ci si erano toccate le maniche. Perché qualcuno non si è tirato indietro, insomma. Grazie, Margherita. Allora, grazie Margherita, buonasera a tutti. Margherita ha parlato della legge Martelli prima. Io vivo in Alto Adige da 26 anni. E avevo avuto il permesso di soggiorno con la legge Martelli nel 1990, perché io sono arrivato in Italia nel 1990. E nel 1990 io arrivo in Italia a Bolzano, mi ricordo che a suo tempo c'erano poco più di 70 immigrati, 60 immigrati senegalesi, non di più. E quell'anno anche avevamo anche fondato l'associazione degli immigrati senegalesi della Radice. Penso che anche fu anche la prima associazione di senegalesi in Italia. Con uno statuto, quindi dal punto di vista formale, diciamo, con tutte le carte in regola. Però prima della situazione senegalesi noi avevamo anche a Bolzano trovato altre associazioni, diciamo, che operavano con il programma sociale e che si occupavano anche di accoglienza, integrazione, sostegno, accompagnamento per quanto riguarda il percorso di inserimento dei cittadini stranieri. A suo tempo, diciamo che c'era un grande entusiasmo che veniva sia da parte dei cittadini autoctoni, ma da parte anche dei cittadini senegalesi. Quindi la festa di volontariato di Pipa Lambarghese, che erano anche diversi, diciamo, senegalesi che ne avevano preso parte. L'entusiasmo che c'era che avevano fatto nei cittadini, diciamo, autoctoni, da quello che si poteva vedere fuori, c'è chi si impegnava bene, con tanta sincerità, con tanto voglia di fare, ma allo stesso tempo c'è anche, sono anche soggetti che erano anche magari animati, diciamo, da altre finalità. Ecco. Questo lo si poteva notare anche da, in un certo senso, anche tra i componenti che provenivano, diciamo, dalla Senegal. Io parlo della comunità senegalese perché è la comunità che io conoscevo. C'erano altre comunità, i marocchini, quindi sono le prime comunità che sono, diciamo, arrivate per prima, diciamo, in Italia al suo tempo. Però non posso parlare perché avevo pochi rapporti con la comunità, diciamo, magrebina. Questi scontri sembrava che c'era anche una gara di solidarietà tra chi faceva di più, chi si mostrava di più, chi faceva di meno, ecco, e quindi e questo, lì nascevano anche degli, diciamo, degli scontri che erano anche dovuti a dei punti di vista, diciamo, diversi, sia da parte dei cittadini autoctoni che da parte anche dei cittadini senegalesi, cioè chi le vedeva in un modo, chi anche in altro modo, chi si impegnava di più, chi di meno e chi aveva scelto, diciamo, di criticare e basta. Quindi le cose andavano fino all'arrivo, siamo arrivati a un certo punto, abbiamo detto, vabbè, adesso c'è una grande confusione, vediamo, ci fermiamo un attimino, cerchiamo di vedere come fa a funzionare le cose, no? Questo era dovuto dal fatto anche che nella gara di solidarietà, tra virgolette, nel senso positivo ovviamente, si ritrovava con diversi soggetti che si impegnavano, telefonavano per, diciamo, una causa che riguardava un soggetto. Mentre succedeva, abbiamo detto: sediamoci, parliamo un attimino, cerchiamo di organizzare al meglio. Quindi c'erano diverse associazioni a suo tempo, la Caritas, la San Vincenzo, c'era l'associazione Mandela, l'associazione dei senegalesi. Abbiamo provato a fare anche il coordinamento di organizzazioni, di associazioni, no? Per poter coordinare bene anche le azioni, no? Perché dove c'è disordine non si ottiene, diciamo, un buon risultato. Una cosa che mi aveva marcato subito, dopo i primi incontri, è da una parte c'è chi decideva, spingeva di scegliere la via più, diciamo, snella, più meno formale possibile, e dall'altra parte nel gruppo degli immigrati, soprattutto il gruppo dei senegalesi, noi puntavamo molto sulla formalizzazione, delle cose. Questo potrebbe anche essere dovuto a magari dei pregiudizi magari che qualcuno di noi aveva perché non aveva trovato, diciamo, il suo spazio o il suo tornaconto di come andavano le cose. E bisogna anche dire che anche le lobby c'erano a suo tempo, 18 anni fa c'erano anche le lobby all'interno anche delle organizzazioni. C'erano dei soggetti che erano più favoriti, allora erano anche capaci di muoversi molto bene, altri magari di meno. Quindi chi spingeva sulla via di formalizzare le cose forse probabilmente aveva le sue ragioni. La cosa che mi ha colpito è che non è mai andata avanti, perché un gruppo aveva delegato alla comunità senegalese il compito di redigere, diciamo, lo statuto di questo coordinamento. Lo statuto non fu mai fatto, perché farlo chiaramente fare le cose, cioè, non sono alcuni che sono tirati indietro, no? Dopo il tempo passa e le cose svaniscono, diciamo, nel nulla. Però detto questo, io non voglio dire che non voglio dire che sono stati fatti solo degli errori, sono anche state tante cose positive che, se mi permettete, l'ho anche descritto, che leggo: come gruppo non abbiamo fatto solo errori, ma anche qualcosa di particolarmente bello per i portatori di handicap fisici che vivono in Senegal e che hanno condizioni di vita estremamente difficili. Verranno rimasto nelle case della situazione e con l'aiuto della provincia di Bolzano, del comune della Caritas, abbiamo comprato e raccolto un buon numero di carrozzelle, scarpe, ortopediche e stampelle. Allora, questo, essendo la prima azione che noi avevamo fatto a suo tempo, anche con gli sguidi che erano nati, ci ha permesso di capire per la prima volta, adesso in Italia è diventata una pratica in questi ultimi 4-5 anni, ma ci ha permesso di capire che con questa azione noi avevamo iniziato a mettere delle pratiche di cosviluppo che consiste non più nell'aspettare l'aiuto che ti arriva dal cielo, ma a essere la prima persona a impegnarsi. Quindi noi avevamo preso l'aiuto con i fondi pubblici, siamo anche autotassati e abbiamo visto un problema che al suo tempo era un problema grave nei nostri paesi di origine, abbiamo cercato pian piano di iniziare a gettare il primo ponte. Quindi viviamo in Italia, in Alto Adige, vediamo che i bisogni sono anche d'altrove, ma partecipiamo anche in prima persona. Quindi i problemi, oltre ai problemi, i problemi hanno anche creato, diciamo, visioni che hanno portato a fare cose positive. Probabilmente nel fare cose positive, quello che ci ha spinto molto è di non volersi rassegnare, perché dopo il fallimento della proposta di fare il coordinamento, se fossimo tutti rassegnati non avremmo, diciamo, arrivato a quel punto. Un piccolo gruppo della comunità senegale ha detto: no, non si può portare del tutto, adesso dobbiamo fare anche qualcosa di positivo. Ho finito? Ma io vi ho chiesto una domanda. Sì. Questo titolo, che l'ha scelto? No, facciamo le domande, perché così. L'ho proposto a Mamadou. Sì, l'ho proposto a Mamadou. Alla luce delle esperienze che portavamo, da parte mia, da parte sua, ed è scaturito così. Ho detto che lo capirete alla fine, il perché, il motivo vero. Ah. Ecco. Io volevo dire che sì, come dice Mamadou, non sempre tutte le cose andavano per il verso giusto, sia da parte dei senegalesi, che avevate tantissime belle intenzioni, no? Però poi ci si azzuffava a volte, no? Ma no, facciamo così, no, facciamo così, no. Ma anche da parte nostra le intenzioni sono state bellissime da parte di tutti. Però a volte non ci accorgiamo nemmeno degli errori che facciamo. E più forti di noi, siamo talmente presi nella nostra cultura, pensiamo che quello che facciamo noi è sempre giusto, perché noi siamo la civiltà, noi siamo la cultura, noi siamo il faro di tutto, e quindi chi arriva qui deve imparare da noi, deve imparare da noi i nostri modi, i nostri usi, i nostri costumi. Allora io propongo, vi leggo la storia di un personaggio che è vero, è una persona che è esistita, esiste adesso, non so se esiste ancora, comunque è un personaggio vero. Io l'ho fatta diventare segretaria di una scuola, ma non è assolutamente la segretaria di una scuola, comunque dovevo dare un, un buono questa persona, va bene. Allora, ricavate voi un po' su quello che... Scusate, un attimo, devo cercare. Allora, una bellissima persona, che però nel modo di agire e di operare succede a tutti, è successo a tutti, è successo anche a me. Quando io parlavo o raccontavo o avevo, insomma, colloqui con qualcuno di loro, quando ci si confrontava, veniva fuori sempre qualcosa che doveva dominare, e lo confesso, qualcosa che doveva dominare da parte mia. E poi col tempo ci si accorge degli errori che si fanno. Allora, l'anziana segretaria della sua scuola era il ritratto dell'efficienza, non solo sul posto di lavoro. Nel tempo libero collaborava in un'associazione per l'assistenza agli emarginati ed extracomunitari in difficoltà. Era dotata di una tale carica di vitalità ed energia da suscitare l'ammirazione di chi la conosceva inizialmente. Regina si era fatta convincere e più di una volta aveva trascorso con lei qualche ora in quel centro d'assistenza dove la donna operava. Contattava imprese per eventuali posti di lavoro, cercava qua e là possibili alloggi, correva dovunque per risolvere i problemi di sistemazione. Regina in una occasione l'aveva vista distribuire indumenti usati. Mostrava una tale grinta da mettere in riga anche il più furbo ed intraprendente degli assistenti. La signora aveva, e giustamente, in simpatia un piccolo gruppo di immigrati. «Sono corretti», diceva, «non attaccano briga con nessuno». Trovò opportuno assegnare a loro quei due container collocati per il momento nel cortile di una fabbrica in disuso in periferia. Sono luoghi inventati questi. Voleva bene a questi ragazzi, certamente li vedeva come suoi figli. Era però una madre possessiva. Sovente si recava lei stessa a preparare il pranzo di mezzogiorno con relativo autoinvito nei locali abitati dai cinque extracomunitari. «Sai», gli diceva, «mangiano così male, se no. Ieri ho cucinato i ravioli al gorgonzola, oggi ho promesso le crepe. Non si chiedeva alla signora se questi piatti fossero graditi al palato di gente abituata ad altro tipo di alimentazione, ad altri gusti. Non si chiedeva se la sua solerte presenza a tavola, momento di unione di un gruppo, potesse o no creare imbarazzo. Regina intuì le prime nuvole quando al telefono un giorno la donna si sfogò amareggiata e arrabbiata. «Ma insomma, pensa che ieri Latif mi ha detto che per me è interdizione entrare nella cameretta. No signora, lasciala stare, quella serve per le abluzioni di Hassan. Ma come, mi impediscono di entrare in quella camera, a me? E poi sono così superbi. Sheriff non vuole che tocchi la sua roba, ma chi gliela tocca? Dopo tutto quello che faccio, oh come sono primitivi. Pensa che cosa mi è successo. Ieri cucevo la pasta e ho detto a Mahmoudi, vieni ad assaggiare se è cotta. E cosa mi ha risposto ingrato? Signora, sto parlando. Eh sì, stava facendo un discorso con un amico che mangiava lì. Ma che modi, no, no, non hanno rispetto per me, per quello che sto facendo. Li amava in maniera viscerale, esclusiva. E non doveva nutrire grandi simpatie per associazioni di volontariato che non fossero la sua. Purtroppo non era il sereno il clima tra i pochi gruppi che si muovevano in aiuto degli immigrati. C'erano disaccordi sulle modalità di gestione dei servizi che il comune metteva a disposizione dei nuovi arrivati. Gli inizi non si presentavano rosei in quanto a collaborazione, ma Regina voleva attribuire all'assestamento della fase iniziale gli attriti esistenti e credeva ancora ciecamente che l'obiettivo unico per tutti avrebbe appianato ogni cosa. Un giorno, durante un'animata discussione con la signora, si sente dire che dei progetti a lunga scadenza messi in piedi da un'altra associazione non sapeva che farsene. Ai suoi ragazzi non serviva più niente, il lavoro ce l'avevano, la casa anche, quindi tutto era a posto. Gli altri immigrati potevano arrangiarsi, erano fatti loro. Questa donna viveva il ruolo di volontaria tutrice con una abnegazione senza pari, ma con troppe riserve. Il suo raggio d'azione girava in fondo intorno a se stessa, e il rapporto con i suoi ragazzi finì rovinosamente poco dopo. No, Regina cercava un destino più ampio e passò oltre. In effetti questo personaggio c'era, tutto quello che ho scritto è vero, però molti di noi hanno agito così. E questo è stato uno dei grossi nostri errori. Poi siamo cresciuti anche noi, per fortuna. Abbiamo capito che non esiste la cultura, esistono le culture, e tutte sono da rispettare. Hai chiesto una risposta, sì. Poi la maggiorità del dibattito mi sembra che io, se devo dare una risposta perché il titolo, devo partire da lontano, perché io sono arrivato in Italia, in Europa, con tante delusioni quando sono arrivato, Io ho scoperto un'Europa che è molto diverso di come mi è stato presentato quando ero in Senegal. Quindi, perché dovevo avere le radici? Uno che aveva le radici in Senegal arriva nel 90 in Europa, lascia una casa grande come un campo da tennis, cioè solo il cortile era grande come un campo da tennis, dove nella casa c'erano due appartamenti, no? Dove vivevano più di 10 persone, dove il ragazzo andava a scuola, aveva tutto, aveva anche una stanza solo per sé. Poi arriva in Europa, dove in un paese dove si dice che è tutto bello, tutto facile, tutto funziona. Poi si ritrova a dormire in un dormitorio dove sono più di 30 persone, quindi è un po' un problema, problematico, quindi un po' di delusione c'è. Poi cosa fa? Animato tanta curiosità, anche dei pregiudizi positivi, che qui è sempre abituato, era sempre abituato a sentire quando era nel suo paese d'origine, su l'uomo bianco, l'occidentale, il modo di fare. Tutte le prassi, come si rapporta, diciamo, con le persone. Dopo vive qui, inizia a lavorare, scopre che, insomma, qui c'è un altro mondo molto diverso di quello che, di come l'avevo conosciuto quando era a casa sua. Poi cosa fa? Ritorna nel suo paese, e lì inizia anche a prendere coscienza, no? Di dove era prima di andare in Europa e come l'Europa, e inizia a valorizzare anche le cose che le appartengono, no? Ed è lì che partono tanti punti di domanda. Poi ritorna in Europa, si rende conto che, insomma, sta cambiando anche internamente, ecco. Il titolo inizia da lì, pian pianino. E io volevo dire questo. La gente si lamenta perché giustamente l'immigrazione ha portato problemi. Gli immigrati hanno portato problemi. E certo che hanno portato dei problemi, perché noi ci aspettavamo dei santi. Non sono arrivati tutti santi. Sono arrivate le persone oneste, sono arrivati anche i delinquenti. Però predominano la cronaca. No. Secondo me esatto. Nella cronaca predominano i. Ma è stato così per tutti. Quando siamo andati noi in America, non avevamo una buona fama noi italiani in America. E certo, la città che inizialmente io avevo notato si era aperta, era comprensiva, un po' alla volta, pian pianino, dalle lettere dei giornali, ho visto che la città si è un po' chiusa, si è un po' irrigidita rispetto a questo problema. e queste sono state le mie osservazioni. Quanti Abdul Ibrahim Ali giravano per i cantieri, le fabbriche, gli alberghi, impiegati nei lavori più umili e pesanti, parecchi. Dovevano tenersi le fatiche che la gente del posto ormai rifiutava. Si caricavano di pazienza e speranza. Fatica, sogni di fortuna e inshallah. Erano tanti quelli così, gente di poche parole. Scivolavano via senza chiedere mai se non un lavoro. Le noie quotidiane se le risolvevano da soli. Erano questi gli immigrati verso cui la città si apriva benevola. La silenziosa invasione era stata inizialmente argomento quotidiano di interventi sui giornali, delle trasmissioni radio in diretta. E, scusate, ho perso il filo. Le parole della gente comune testimoniavano in alte percentuali la convinzione di opportunità e dignità da dare ai nuovi arrivati. Fu un po' alla volta che si alzarono i muri della diffidenza. Emigrare è un po' anche avventura, e gli avventurieri non mancarono, di qualsiasi nazionalità. L'accoglienza aveva accolto anche loro, soprattutto loro. Bivaccavano nelle strutture messe a disposizione, distruggevano, era quasi una sfida. Pasti caldi più o meno gratis, era un diritto. Chiasso, risse quotidiane, interventi di polizia, forse droga. E alla ribalta salì questa gente, e non chi nell'anonimato continuava a costruirsi la vita per sé e le famiglie lontane. Per i molti che fra i vapori delle cucine non contavano più le ore passate a lavare pile e pile di piatti, per quelli che si guadagnavano la stima del capo nei cantieri, nelle officine, per l'attaccamento a quella fatica che è compagna fedele dell'immigrato, c'era qualcuno che aveva scoperto tutele fino allora sconosciute e solidarietà facili per mettere in moto le proprie furbizie. Per i molti che col risparmio fino all'osso nutrivano un progetto, c'erano altri che sceglievano i soldi facili nello spaccio di droga. Si andava offuscando la visione serena che Regina si era data su quanto ruotava intorno all'accoglienza di questa gente. Aveva risposto a molti richiami e si accorgeva che la chiarezza e il bisogno di tutti quelli con la pelle più scura della sua non erano sempre ovvi e scontati, che non sempre le solidarietà disinteressate delle labbra corrispondevano a quelle del cuore. Sentiva necessario rivedere qualcosa nelle sue convinzioni, dei discorsi fatti in passato, ma faticava a mettere accordo tra i suoi ideali le realtà constatate, le attenuanti che dava questo a quell'altro, le facili commozioni a cui voleva sfuggire, il timore di perdere i suoi slanci. Ma noi pensiamo di essere stati obiettivi nel nostro libro, penso. Non abbiamo esaltato niente, nessuno, abbiamo detto, penso, la verità sugli uni e sugli altri, sui residenti e su chi arrivava. Abbiamo parlato, penso, obiettivamente, abbiamo detto la verità. Avete fotografato la realtà? Abbiamo, penso, con la sua realtà, sì. Io credo che questo è stato un libro abbastanza tormentato, fatto di corse, rincorsi, incontri e scontri. La verità è forse alla fine, quando ti vuoi dire qualcos'altro di quella signora che ti ha dato l'elemosina. È stato un episodio che è successo a Mamadou, sì. E che gli è rimasto molto impresso, per dire, insomma, venivano catalogati tutti alla stessa maniera. Sì, è anche abbastanza divertente, nel senso che si intendeva generalizzare a suo tempo. Io mi ricordo nell'autobus, mi era capitato del giorno in cui una signora dal fondo dell'apertura mi raggiunge e mi dice, arriva da me vicino, dopo che mi fu vicino sentì la sua mano nelle mie tasche, non riusciva a comprendere il suo gesto, mi ha corso poco dopo e mi aveva lasciato dentro un biglietto con di 1.000 lire nella mia tasca. Subito richiesi una spiegazione per quanto aveva fatto, mi rispose candidamente che mi sarebbe servito per prendere un caffè. Io risposi: signora, molto grazie, feci io di rimando, ma i soldi per prendere il caffè io li ho. Lei insisteva, ma non voleva indietro per il denaro, finché non la obbligava a riprenderlo. Ero molto nervoso, non riuscivo a comprendere il perché di quanto mi accadeva, ma quando la signora è dispiaciuta mi disse: li ho sempre dati ai tuoi amici. Allora lì avevo capito tutto. Però, come dirlo però, che noi non siamo tutti uguali e siamo tutti amici? È un problema. Allora, Delta, è un problema e lo è ancora tutto oggi. Perché quello che io ho notato dal 90 fino adesso, c'è sempre la parola integrazione, come facciamo a integrarli? C'è chi si lamenta, c'è chi specula, e queste speculazioni le troviamo come le trovavamo al suo tempo, a tutto oggi ce ne sono parecchie speculazioni per quanto riguarda il settore, diciamo, dell'immigrazione e dell'integrazione. Dietro la parola integrazione c'è, insomma, chi produce, diciamo, il suo benessere. E per quello che mi riguarda, in base anche secondo le esperienze che io ho fatto qui in Italia, la definizione della parola integrazione che avevo dato 18 anni fa, secondo me vale ancora tutto oggi. E leggo la frase che avevo, le due frasi che avevo scritto: sentirsi a proprio agio con se stessi fra i tanti è il significato che io do alla parola integrazione. Questo vale per la gente del posto e per quelli che ci arrivano. Grazie Margherita Mamadou. Poi passo il microfono, che non ce l'abbiamo, ma sentite bene che state al fondo, ci sono delle sedie qua a pagamento, però potete venire. Dunque, Elisa Pavone invece, dopo una decina di anni quasi, ha scritto un altro libro, In sospensione tra i due mondi. Quindi passo quindi la parola ad Elisa a raccontarci le nascite di questo libro qua. Prego. Allora, questo libro è nato dal progetto di Valeria Vanni, che lavorava in un'associazione di donne che si occupava di migranti e aveva ascoltato storie dalle donne che chiedevano informazioni, aiuto, storie in alcuni casi anche eccezionali, molto crude, sentiva che era una perdita non conservare queste storie, insomma, per cui aveva fatto un progetto per fare un opuscolo, insomma, no? Queste donne venivano percepite all'epoca un po' come facenti parte del blocco informe degli immigrati, come se avessero cominciato a vivere nel momento in cui erano qui, insomma, no? Avevamo scelto anche delle donne perché sono le più aperte a raccontare, sono quelle poi più vicine al nostro privato, perché vivono spesso nelle nostre case, insomma, e quindi ci permettevano anche di vedere con gli occhi di un altro, insomma, no? E erano donne poi anche con un'alta formazione, la maggior parte, e quindi disposte a mettersi in gioco, e anche perché poi le donne venivano percepite da chi aveva paura dell'invasione degli immigrati come meno minacciose rispetto agli uomini, insomma. Appunto, nato come un opuscolo, poi ha richiesto un anno di lavoro volontario e è diventato poi alla fine un vero e proprio libro, che è stato stampato grazie all'aiuto di Luisa Gnecchi, che all'epoca era presidente del Consiglio Provinciale, e è stato, il libro poi è stato diffuso gratuitamente ed è, lì ci sono delle copie che abbiamo conservato con la speranza di poi dare un aggiornamento di queste storie, ma per il momento non è stato possibile. Cosa volevamo fare? Volevamo dare voce, far conoscere aspettative, problemi, storie di vita, ma senza una pretesa sociologica. Volevamo dare solo uno spaccato di storie, di immagini, di volti di donne, senza pretese appunto sociologiche. Però ci siamo ritrovate poi con delle storie di donne con origine molto diversa, per esempio Albania, Ucraina, Senegal, Marocco, Argentina, Iran, Brasile, Thailandia, insomma, no? E abbiamo voluto anche dare alcune informazioni sul contesto per dare la possibilità a chi leggeva, e spesso anche non persone necessariamente acculturate, per rendersi conto da dove provenivano queste donne e cenni anche sul tipo di, sulle problematiche coinvolte, insomma. Era ovviamente, cioè era basato su su due interviste. La prima intervista in cui la donna raccontava e registravamo, ma lasciavamo libero campo al fluire del racconto. Poi a casa io scrivevo queste storie e le riportavamo una seconda volta, chiarendo dei punti. Non si trattava, chiarendo dei punti, chiedendo se corrispondevano, eccetera. Non si trattava di una sbobinatura, perché volevamo volevo scriverle in maniera che invitasse a leggerlo, quindi sotto forma di racconto, anche con strutture diverse a seconda della donna, eccetera. E inevitabilmente chi scrive mette del suo, insomma, no? Sia con le parole, con la struttura, e in questo ci eravamo fatti guidare dall'emozione che queste storie ci trasmettevano, e nello stesso tempo sceglievamo un taglio che corrispondevano anche alle nostre emozioni, per esempio quelle di Valeria, che era lei stessa immigrata, e alla mia, che provengo da una regione, il Molise, che ha vissuto un'enorme emigrazione sia all'inizio del Novecento sia negli anni 50, no? Per cui per tutte le volte che io tornavo a casa viaggiavo con questi migranti che tornavano dalla Germania e mi raccontavano le storie, per cui nel mio vissuto c'erano queste porte che si chiudevano, degli amici che sparivano e andavano, non so, lontanissimo, per cui non si sapeva che non l'avremmo più visti, quindi c'era anche una forte emozione da parte nostra. Dunque, poi infatti avevamo poi tra l'altro aggiunto al libro due storie di immigrazione italiana, una dell'immigrazione in Svizzera e l'altra dell'immigrazione in Australia, quando i profughi avevano lasciato l'Istria. Quindi c'era anche questa voglia di ricordare la nostra emigrazione, che nei libri di storia era confinata a una mezza paginetta, insomma, no? Ma che era un po' quasi taciuta, insomma, non era stata riscoperta come è successo dopo con film, libri, eccetera, no? Quindi era voler mettere in risalto anche questa. Avevamo appunto cercato di dare anche un'idea del contesto da cui provenivano, non so, la caduta del comunismo, i tumulti in Albania, quando era più facile procurarsi un Kalashnikov che delle uova. cioè l'iperinflazione in Argentina, la fuga della dittatura, cioè che dava anche appunto l'idea del contesto e della diversità dei contesti. Erano storie di coraggio, di volontà anche di riuscire e di scoperta di queste donne, della propria forza, forza che non pensavano probabilmente neanche di avere, no? Ma che hanno scoperto attraverso queste vicende. Non so, per esempio, vivere da homeless mantenendosi pulita e dignitosa, insomma, no? Per esempio la depressione, vivere una depressione da cui si sentiva, in cui si era caduta per 4 figli cresciuti nati uno dopo l'altro, e curarsi come da africana con la musica, oppure mettere in piedi una mensa nel proprio paese quando spariscono per un blocco dei risparmi e del cambio, spariscono tutti i risparmi. E questa è una donna che organizza insieme ad altre una mensa per 400 persone. Prima requisiscono lo zucchero, il latte per i bambini, e poi mettono in piedi, con l'aiuto di un religioso, mettono in piedi una mensa per 400 persone. Cioè scoprono proprio questa loro forza, e soprattutto anche essere costretti a lasciare i propri figli per dei periodi lunghissimi, insomma, no? E tentare in ogni modo di mantenere questi rapporti, insomma, no? Ecco, il libro ha avuto un impatto molto forte sia su di noi che sulle donne che ne sono protagoniste, perché per la prima volta sentivano che la loro storia aveva un valore, insomma, no? E poi di fronte a trovarselo scritto su un libro era veramente un impatto forte, ma ha avuto un impatto anche sul pubblico, perché il libro è stato diffuso, è stato ristampato 2 volte, in tutto 1700 copie in italiano, poi è stato tradotto in tedesco, diffuso in tutte le librerie dell'Alto Adige, e poi in modo gratuito, anzi, siccome sono rimaste lì delle copie che avevamo tenuto da parte per aggiornarlo con il seguito delle storie, chi vuole può prenderlo. Ecco, poi è stato trasformato in uno spettacolo teatrale che abbiamo fatto qui, pensavamo di avere un po' di pubblico, e abbiamo dovuto chiudere le porte perché non potevamo ospitare tutti. Abbiamo fatto diverse rappresentazioni anche fuori da Bolzano e dall'Alto Adige. Ecco, cioè, come sono queste storie? Cioè sono storie, alcune di successo, anche di emigrazione riuscita, per esempio quella di Valentina, di un'ucraina, che è sotto forma di lettere, perché questa madre continuava a scrivere, aveva lasciato in Ucraina 2 figli, uno di 10 e uno di 15 anni. Era arrivata in Italia a 44 anni, era psicologa e lavorava in una scuola materna. Aveva avuto anche un premio perché aveva trovato un metodo ingegnosissimo per insegnare ai bambini a leggere di 3-4 anni, insomma, no? Ecco, divorziata, aveva lasciato questi 2 figli, e il piccolo, il di 10 anni, rimane con la nonna, e quello di 15 decide che vuole stare da solo, vuole continuare la scuola. Era una scelta difficile per una madre che parte, insomma, no? però è anche una storia di successo, perché il figlio poi è rimasto in Ucraina, è diventato un giornalista della televisione e ancora è lì, insomma. Ecco, prima approda a Napoli presso una famiglia in cui subisce delle molestie da parte del marito e della donna e scappa via. Poi rimane, comincia a fare la badante e dice, si risparmia, ma non si cresce, insomma, cioè perché c'era proprio il desiderio di poter crescere attraverso questa esperienza. Si trasferisce poi a Bolzano, a Trento, dopo un lunghissimo periodo, grazie alla sanatoria riesce ad avere il permesso e a farsi raggiungere dal figlio piccolo. E questo è anche una cosa che spesso succede alle donne che lasciano i figli: quando li rincontrano, pensano sempre, li vivono come se avessero l'età in cui li hanno lasciata. Tant'è vero che questi figli rispondono: ma io non sono un bambino, insomma, no? Ecco, Valentina oggi finalmente è riuscita a cambiare lavoro e fa la cassiera. L'inserimento del figlio nella scuola non è stato positivo, perché poi si è ritirato, però lavora, si vive per conto suo, si è sposato, e tra l'altro con una bellissima ragazza. Valentina ha trovato un compagno italiano con cui vive, ma ha sempre questo grande desiderio di crescere, insomma, e non si è limitata a fare la cassiera, ma per esempio fa volontariato nella Croce Rossa e sta facendo i vari gradi, insomma, no? È in attesa della cittadinanza. Il suo progetto è di rimanere in Italia. Io gli ho chiesto: ma non ti dispiace perdere la cittadinanza ucraina, perché non c'è la possibilità della doppia cittadinanza? E lei ha detto: beh, ormai io ormai sono qui, posso andare tre mesi all'anno eventualmente nel mio paese, e questo mi basta, insomma, no? Quindi è una persona che fa una vita attiva, va a ballare, la famiglia del marito e del compagno non l'ha accettata volentieri, però insomma lei non se ne fa una malattia, anche perché sono in Sicilia. Ecco, vorrei leggere qualche passo di come lei e di come queste donne, o perlomeno lei, ci vede. Una volta dice: qui c'è il lavoro, non sto mai disoccupata, non mi tiro mai indietro, mi sento amareggiata solo quando mi trattano male. Un militare mi ha detto: sei psicologa? E allora cosa ci fai con quello straccio in mano? Quello straccio avrei voluto ficcarglielo in bocca. È proprio vero che dove comincia un militare finisce la logica. Per fortuna c'è anche il lavoro da babysitter. Do a questi bambini tutto l'amore che non posso dare a Roma né a Igor. Chissà se queste famiglie capiranno mai quanto sono fortunate, se si rendono conto che ciò che diamo loro lo togliamo ai nostri figli. Le donne qui sembrano stressate, nervose, non sanno apprezzare quello che hanno. Convivono ma non si sposano, entrano in crisi per ogni problema dei figli e li mandano dallo psicologo. Contro i suoi interessi sta parlando. Sì, infatti, se la mia laurea fosse qui riconosciuta diventerei ricca. Ogni piccola prova per i bambini è un dramma, è il bambino che comanda. Ma come farà con questo sistema a imparare la responsabilità e a maturare? E poi, a proposito degli uomini, per quello che vedo, a 21 anni sono ancora bambini, a 40 vivono ancora con la mamma, o non sono mai usciti di casa, o ci tornano dopo da divorziati. Questi poi, quando il fantasma della solitudine comincia ad aleggiargli intorno, cercano le coccole come dei bambini e vogliono una moglie uguale alla mamma. Se hanno figli, non sanno da dove cominciare. Di noi pensano solo che siamo qui per catturare un marito e fanno domande cretine. Ma tu ce l'avevi un lavoro e una casa? Non gli importa sapere chi siamo, cercano solo di portarci a letto. Ecco, questa è un'altra storia, diciamo così, anche riuscita, è quella di una peruviana, Soledad, arrivata in Germania a 20 anni. È una ragazza che aveva lavorato fin da piccolissima, vendeva il pane per strada a 5-6 anni, insomma. Però con una grandissima voglia di studiare. È solo grazie ai risparmi della scuola, della madre, che riesce a frequentare una scuola privata, e poi a 15 anni, il padre era contrario, perché tanto le donne non hanno bisogno di studiare, a 15 anni va a fare la domestica e scopre un modo di vivere diverso. Continua a studiare con grande fatica e continua a lavorare poi con la famiglia, fino a quando si iscrive all'università e un compagno di studi le telefona a casa. Il padre, che nel frattempo era diventato testimone di Geova, reagisce molto male e vuole che lasci l'università perché secondo lui solo per cercare marito. Invece lei si oppone e alla fine lui la butta fuori di casa. Va a abitare in una favela, dove però si costruisce una baracca e lavora con una associazione di cooperazione, che si occupava di cooperazione, e insegna a leggere e fa scuola ai bambini della favela. Così gli propongono poi, quando ha 20 anni, di venire in Germania, di andare in Germania come babysitter per un anno. Lei accetta e dopo il percorso in Germania, dove impara il tedesco, non ha però voglia di conoscere il mondo, e si informa, e così decide di venire in Alto Adige grazie appunto alla conoscenza del tedesco. All'epoca non aveva permesso di soggiorno e fa la babysitter presso una famiglia, però quando chiede di essere messa in regola viene sbattuta fuori dalla mattina alla sera, insomma, per strada. Non si perde d'animo, continua a lavorare, e fino a quando riesce ad avere il soggiorno e rimane, si finalmente si rilassa, insomma, no? Dopo una vita così, così dura, e rimane incinta di un compagno di lavoro. L'uomo vuole, molto più anziano di lei, vuole che abortisca, ma lei, cattolica fervente, si rifiuta, insomma, e decide di crescere il figlio da sola. Naturalmente è meravigliatissima dell'aiuto, di tutto l'aiuto che può avere a livello di stato sociale, insomma, per la gravidanza, eccetera. Però questo non toglie che la vita di una ragazza madre, e soprattutto immigrata, è molto dura, insomma. Però ciò che la meravigliava veramente era il fatto che qui si poteva studiare, fare corsi di tutti i tipi senza pagare, insomma. E lei ne ha approfittato in tutti i modi, insomma, no? Si è trovata poi anche di fronte alla difficoltà, perché per esempio aveva fatto diversi studi per fare la ragioniera, per fare le fatture, voleva avere la possibilità di fare degli stage pratici, e questo purtroppo è un problema a Bolzano, perché si può frequentare uno stage pratico solo se si è disoccupati, ma se si è da 6 mesi, ma se si è disoccupati non si è cioè uno deve pur mantenersi, quindi non riesce a frequentare a fare stage pratici, e quindi, nonostante ci fossimo interessati, non poteva, perché nessuno assume prende una persona che poi può avere, con cui può avere problemi per l'ufficio del lavoro, eccetera. A un certo punto lei poi fonda una un'azienda personale, una cosa di pulizia, e continua a lavorare fino a quando poi con il compagno, il padre di suo figlio decide di ritornare in Perù. Il padre di suo figlio aveva avuto anche un tumore, però si era curato, insomma, e sono tornati insieme. Lui però non si è trovato bene ed è ritornato in Italia. Lei invece ha messo a frutto tutti gli studi che aveva fatto, tutti i corsi di formazione, e ha avuto successo nel lavoro, si è comprata una casa, l'ha affittata e si è iscritta all'Università di Ingegneria. Quindi adesso so che anche fa politica, insomma, ho utilizzato questa sua esperienza. È venuta in Italia anche per far vedere il bambino al marito, e quindi sì, direi che è una storia positiva di immigrazione. Purtroppo però non è così per tutti, insomma, perché in alcuni casi, per esempio, partire con un figlio adolescente, ritornare nel proprio paese con un figlio adolescente è molto problematico. È difficile che dei ragazzi che sono vissuti qui e che si sentono italiani si riadattino al proprio paese. Ai paesi dei genitori, insomma, no? Ecco. E in effetti questa persona che era partita è stata costretta a ritornare, anche perché in America Latina, soprattutto in Argentina, circola una droga estremamente, adesso io non mi ricordo il nome, ma estremamente distruttiva, che uccide questi ragazzi nel giro di 2-3 anni, insomma. No? Ecco, comunque cos'è quella l'identità per donne che hanno esperienze di migrazione? Per esempio Laura si chiede: cosa sono, italiana, argentina? In Italia mi sento argentina, lì mi sento italiana. Sono come i miei bisnonni, che diventarono argentini senza mai perdere la speranza di tornare un giorno nel paese della loro infanzia. Sono più fortunata di loro perché di tanto in tanto posso tornare. Ancora una volta seguiamo le orme. Immagino orme che vanno e vengono sulla carta del mondo e le mie sospese fra due mondi. Ecco, l'ultima storia che vorrei raccontare è quella di Sara. Sì. No, vorrei solo dire che è una storia di una persona che è arrivata dall'Iraq, che ha viaggiato per un mese con la famiglia a piedi, con i due figli piccoli, ed è una storia che ci rimanda all'oggi. Perché è la storia che ognuno può, di cui ognuno può avere conoscenza andando in stazione dove passano queste famiglie siriane, insomma, no? E che in questo momento sono anche in difficoltà perché la provincia sta restringendo enormemente l'accoglienza delle persone vulnerabili, per cui anche per esempio una famiglia, l'altro giorno una famiglia di siriani con 3 bambini piccoli ha dormito per strada per 2 notti e poi è stata rispedita ad Agrigento, da dove proveniva. Ecco, bene, grazie. Grazie Lisa. Credo che Margherita, Mamadou e Lisa vi hanno fornito, come dire, immagini della storia di questo territorio qua, che da anni ormai lo vediamo cambiare, perché comincia a essere abitato di persone con fisionomia, con atteggiamenti, con gestualità, con, come dire, un uso di lingua che magari sconosciute, ma queste persone ormai crescono, si formano, come abbiamo visto nel caso della Boroviana, dell'Ucraina e di tanti altri, nascono figli, E questo universo di persone, di questo segmento sociale nuovo, continua a essere e per tanto tempo a essere accompagnato da queste domande: dove metto le radici? Una domanda che sembra così, ha un po' di poesia, sembra un po' una retorica, una domanda retorica, però di fatto le persone straniere spesso si trovano collocate sulla soglia. Questa soglia, delle soglie possono guardare sia i luoghi di provenienza che i luoghi di arrivo, e questa credo che è la ricchezza che troviamo nelle narrazioni di questa persona qua. Quindi questo è collocarsi su una soglia, no? Che il continuare a domandarsi, continuare a farsi delle domande molto spigolose, no? Chi sono, dove andrò, come saranno i miei figli, saranno di qua, saranno di là, ma molto probabilmente poi finiranno tutti come il zio Pietro, un migrante calabrese che hanno vissuto a lungo in Germania, venivano chiamato i germanesi, che sono un po' germanici, però calabresi, quelli diventano il germanese. Il germanese, questo zio Pietro, prende poi alla fine del suo percorso come Mamadou, come l'ultima frase che è stata citata da Elisa, continuare a seguire l'orma. L'orma di cosa? Allora zio Pietro non si riconosceva più nell'italianità, non si riconosceva più nella germanità. E diventa qualcos'altro, però certamente non è così legittimato dire che sono qualcos'altro, perché gli italiani vogliono che lui fosse italiano, i tedeschi volevano che lui fosse tedesco, no? E ognuno vuole che esercitare una sovranità su questa persona, mentre le persone cambiano. Allora lui dice alla fine del suo percorso, dice: io vorrei essere chi sono? Vorrei essere come, era su un ponte e guardava l'acqua che scorre, vorrei essere come l'acqua che scorre o come il fumo delle mie sigarette che sparisce nell'aria. Quindi c'erano queste due dimensioni viaggianti, due dimensioni che continuano a rinnovarsi, come l'aria, come l'acqua. E quindi dove mette le radici? Probabilmente le straniere saranno come le nuvole, nascono dall'acqua e poi torneranno nell'acqua, ma comunque in ogni caso continuano a essere scaraventate dall'aria e continuano a stare in compagnia dell'acqua. Credo che questa è l'immagine che possiamo così aver acquisito da questi due libri, in sospensione tra due mondi. A volte non è sempre tra due mondi, tra tantissimi mondi, perché poi uno si confronta con tanti modelli di vita, con tanti sguardi, perché né l'Alto Tisini, né i tirolesi, né gli italiani, né gli arabi, né i musulmani, né gli evangelici sono un pezzo unico. Esperienze diverse, le persone rappresentano delle esperienze, queste sono le esperienze, come hanno fatto benissimo sia Margherita Mamadou e Elisa, di aver non solo fotografato, non solo su cui hanno riflettuto, ma hanno voluto anche documentarla e offrirla a noi, di poveri cristi che siamo qua ad ascoltare fino a questo momento, poveri cristi soprattutto, perché gli uomini, come abbiamo visto, hanno bisogno di coccole, quindi sono da qualche altra parte, si stanno facendo coccolare, mentre le donne sono tenaci come le donne ucraine, boliviane, come tante donne che vogliono, no? Come Eva, del resto Eva si è portata dietro Adamo, povera diavola, perché felice, contento sotto un albero nel paradiso, e dice: no, andiamo giù che è bellissimo, troviamo tante cose. E poi quando sono arrivati hanno trovato i dinosauri, i draghi, e giù Adamo doveva combattere contro questa cosa qua, e quindi il peccato cosiddetto originale. E quindi, detto questo, se ci sono, avete voglia, forza, pazienza, simpatia per le persone che fino adesso vi hanno parlato, o volete anche infastidirvi con qualche domanda spigolose, siamo a disposizione. Se no, con i nostri bellissimi sorrisi, chi si è addormentato e ha fatto benissimo, che è rimasto sveglio, ha fatto ancora benissimo, possiamo trovarci, perché io non vi lascerò in pace, no? Perché finché ci sono gli immigrati ci sono io, no? E quindi, e in novembre avremo altre occasioni. Molti di voi hanno i loro email, cose, quindi vi inviterò a seguire l'orme di persone che sanno raccontare. Cioè, quindi con questo, penso che volete andare via, no? Perché ognuno si è messo la borsa sotto, già pronti. Quindi, visto che siete pronti per andare via, Mamadou per salutarci ha una frase. Quindi, state tranquilli, silenziosi, silenziosi, perché Mamadou ha una frase da leggerci. Finite la frase, io non dico più niente, vi saluto. Vi auguro, no? Basta, Margherita. No? Basta, volevo ringraziare. Ah, ringraziare, va bene. Volevo ringraziare Fatou Maddah, che è stato il primo, veramente, che ha fondato l'associazione Mandela, che ha dato l'avvio a. A tanta altra esperienza. Che è Salvatore. Un applauso a Salvatore. Bene. Allora, Mamadou finisce, io vi auguro buona serata, ci troveremo sicuramente. Grazie mille. Scusate, vorrei dire che il libro è lì, il libro vuole qua, ed è gratuito. È gratuito, quindi non aver paura, potete prenderlo. Mamma, un attimo però. Mamadou, ascoltiamo la frase di Mamadou. Penso che leggo under integra quello che hai appena detto e poi dà una risposta anche chiara perché il titolo dove l'abbiamo, perché l'abbiamo scelto. La conclusione della mia parte dice: integrarsi in un ambiente dove non deve necessariamente portare a camuffare la propria identità o stravolgere ciò che è peculiare della tradizione che ti ha plasmati. Si può rimanere se stessi e comunque godere di ciò che caratterizza gli altri. Quello che penso credo sia valido per noi, per gli italiani e per i sudtirolesi. Io ho diverse amicizie tra le gente di Bolzano. In effetti conosco tante persone con cui ho stabilito rapporti basati sulla stima, sulla franchezza. In particolare frequento una famiglia di più di 7 anni. Posso dire che ormai per me è come fossero parenti. L'Italia mi ha offerto delle opportunità che non ho trovato nel mio paese. Sto bene qui, ho la possibilità di aiutare la mia famiglia e di risparmiare per rendere più serena la mia vita futura. Penso molto all'Africa e ritengo che il suo progresso dipende anche dai tanti che hanno oltrepassato i suoi confini. Non voglio scappare dalla mia terra, non voglio voltare le spalle, benché sia stata un'altra nazione a riempire le speranze questi miei anni. Mi chiedo sempre, qual è il richiamo più forte? Dove metto le radici? Sono soddisfatto e grato perché stare qui vuol dire lavoro, guadagno, che mi farà realizzare un sogno che ho in testa. Ci credo e mi preparo. Altri mi hanno preceduto, hanno visto trasformare in realtà un proprio progetto accarezzato in anni di fatica. Molto possiamo fare per migliorare la condizione dell'Africa, ma comincio a amare anche questa nuova patria. I miei pensieri si rincorrono e si accavallano. Amo il Senegal, amo il Sudtirolo e li vedo tutti e due nel mio futuro. Ma come? Ancora non posso saperlo. Ma quando avrò fatto la mia scelta, metterò a frutto i doni che mi hanno dato queste due meravigliose terre e getterò un ponte fra loro. Terrò conto dell'uno senza dimenticare l'altro. Perché un fatto è certo: le mie patrie sono due. Uno mi ha cullato e l'altro mi ha fatto crescere. Quando è che vieni a fare qualcosa anche tu, dai, vieni, dacci una mano, ci manca la tua scuola. Ci parliamo. Ciao. Ci vuole un'Italia.